as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti. Oggi il pane e rose puntatone, sì, importante. Non potevamo non farlo, visto che sono riuscito attraverso un compagno della Fioma ad avere il numero di Nando. Chi è Nando Primerano? È un compagno del centro sociale di Reggio Calabria. Io, che ho militato tanti anni nei centri sociali, lo conosco di nome. Il centro sociale di Reggio Calabria è una delle realtà più antagoniste che esistono in Calabria, molto importante per l'attività politica sia che viene fatta, sia per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda a livello internazionale la solidarietà data sia alle lotte in America Latina che in Palestina che ai curdi. Ricevuto il numero di Nando, li ho contattati. Loro sono nella Freedom Flottiglia, che è partita il 24 settembre, credo, da Otranto. Calcolate che ci sono due flottiglie, una che è partita dalla Freedom Flottiglia, una che è partita da Otranto il 24 settembre, una che sia partita il 25 da Catania, il 26. E domenica abbiamo fatto questa intervista, chiaramente. Loro erano a sud della Grecia, un po' lontani da dove oggi era Sumud, sotto Creta, e li stavamo cercando di raggiungere, insomma, arriveranno un po' tardi, chiaramente. Si incontreranno, credo, con quelli, i compagni che sono partiti da Catania. Stiamo parlando della Freedom Flottiglia, compagni che già, insomma, conosciuti per quello che hanno cercato di fare in Palestina. E nella loro nave, barca, la Blue Califfo, Nando, Dario, Francesca e Fabio, sono in quattro, che stanno navigando, ci hanno rilasciato questa intervista. Io ho fatto qualche domanda, perché insomma è anche giusto che, certo, è corretto che si parli solo della Sumud, però anche i compagni della Freedom Flottiglia che stanno arrivando, sono comunque, è giusto parlare anche di loro, di quello che vogliono fare. E li sentiremo dopo questo pezzo musicale e poi ci sentiamo per conclusioni molto veloci, perché loro diranno praticamente tutto. Il tè più buono lo fanno in Palestina, lo vende una bambina coi dolci alla cannella, sta sotto quella stella, fuori da una tenda. Se non la vedi, togliti la benda. È preziosa, gentile, dolce, bella, è così forte, Gazzawi, gazzella. Porta una speranza, pazza, va a dormire nel suo letto, si sveglia in ambulanza. Hanno ucciso la tua mamma mentre andavate per mano. Il cuore mi pesa, perché è un cuore umano. E questa storia ci ha preso tutti. La musica, l'azione daranno frutti, perché l'unica cosa che ci consola è farti sapere che non sei sola. Siamo artisti come te, gente che si somiglia, ormai ti amiamo, siamo come una famiglia. Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo, mettetevelo in testa. Andare in altalena tra le case in rovina e fare resistenza. Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo con la nostra potenza. Persone stupende preparano il tè e fanno resistenza. Calore, ruba il cuore, fiore di ribellione. Intorno al fuoco a ballare, battere pentole, rumori di aerei, bombe, pallottole, mangiando ceci, cuocendo il pane, tenendo il più possibile le guerre lontane. I libri di scuola accendono falò, aggrappata alla vita, più forte che si può. Apri gli occhi all'improvviso con la faccia bruciata, in barella su un calesse, la vita se n'è andata. Nave alla deriva a cui manca la prua, ti fa coraggio un'altra mamma che non è la tua. E ora sei maestra, maestra di vita, sboccia energia che sembrava sparita nel buio, tra le bare di lenzuola, mentre i bambini al mondo si preparano alla scuola. Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo, mettetevelo in testa. andare in altalena tra le case in rovina e fare resistenza. Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo con la nostra potenza. Persone stupende preparano il tè e fanno resistenza. Times Square, Trafalgar Square, Torre Eiffel, Chanel, San Pietro, i mille pezzi come uno specchio di vetro. L'Occidente non è più niente, bugiardo, coloniale, ha distrutto ogni ospedale, ogni ricordo di vita normale. La gente senza scampo lotta ancora ed è il nostro vanto. E noi più forti di prima, perché il regista continua nel film dell'orrore e la Palestina. E dietro quella tenda, se non la vedi togliti la benda. Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo, mettetevelo in testa. Andare in altalena tra le case in rovina e fare resistenza. Fanculo, ci siamo anche noi nel mondo con la nostra potenza. Persone stupende preparano il tè e fanno resistenza. Genocidio, bambini innocenti, orfani, cambieranno gli eventi, faranno la storia, quando nessuno ne avrà più memoria. Ciao Nando, so che state ormai quasi in sud della Grecia, ho visto il vostro track, la vostra traccia, e volevo insomma farvi delle domande. In questo momento credo che stiate fermi, siete liberi, non state lavorando in nave. E volevo innanzitutto dirvi, insomma, voi non state con la Sun Global flottiglia, siete in un'altra flottiglia che è partita da Otranto. Innanzitutto di voi se ne parla pochissimo, così anche come pare che dovrebbe partire anche un altro gruppo di compagni con altre navi da Catania. Racconta un po' la vostra esperienza, come avete deciso di partire, se c'è differenza tra la Subglobal Flottiglia e voi, come mai non siete uniti a loro da subito, questa decisione di partire da Otranto. Raccontaci un po', insomma, della vostra missione, di cui poi nessuno parla, no? Che si parla sempre della principale flottiglia, quella che è partita da Genova, dalla Spagna, però vorremmo anche parlare della vostra, del vostro gruppo di compagni, del vostro progetto. Buonasera a tutti, vi salutiamo dalla Brucaliffo, oggi a Lauda, la barca che sta per raggiungere le altre flottiglie che sono sotto a sud di Creta. Noi siamo partiti dalla Calabria, io e Nando Primerano, per raggiungere per unirci alla Freedom Flottiglia ad Otranto. La nostra partenza è stata accompagnata da tantissimi compagni che nei tre porti che abbiamo toccato ci hanno sostenuto e, come dire, incoraggiato in un modo veramente, veramente per noi entusiasmante. Ad Otranto all'equipaggio si sono uniti Francesca. Ciao. E Fabio, che adesso sta lavorando in barca e quindi è un pochettino fuori. E si sono uniti a noi e noi siamo partiti in realtà con la Freedom Flottiglia Italia perché per motivi logistici dovevamo preparare la barca e poi dovevamo unirci ad altri, ma pensiamo che tutte le flottiglie hanno lo stesso obiettivo, che è quello di rompere l'assedio che circonda Gaza, perché il problema non è quello materiale di portare gli aiuti, che pure è importante, ma il problema è aprire un corridoio umanitario costante che permetta di portare gli aiuti e soprattutto che questi aiuti arrivino alla popolazione e non siano controllati da altri. E noi, diciamo, ci siamo mossi tranquillamente e da Otranto abbiamo già fatto intorno alle 200 miglia, 220 miglia di navigazione e siamo assolutamente fiduciosi di poter arrivare a Gaza e di dare il nostro contributo. E mentre noi abbiamo iniziato a muoverci, a navigare, la cosa più importante è che in questo paese, nel nostro paese, si è manifestato un movimento di sostegno a questa iniziativa che è diventato imponente. Non si vedeva da anni, lo ricordavi tu poi, ed è assolutamente una novità, secondo me, politica rilevante. Ed è semplicemente un movimento che dice: rompiamo l'assedio intorno a Gaza, fermiamo il genocidio che i sionisti stanno commettendo. Mi sembra che sia questo il dato politico più rilevante fino ad oggi. Seconda domanda che vi facciamo è: tutti qui siamo in pena per la vostra sorte. Chiaramente i rischi che corre la flottiglia li correrete anche voi. Volevamo capire, insomma, se la situazione di quello che voi avete la percezione, se siete in contatto con quei compagni della flottiglia, come avete intenzione di agire, se continuerete ad andare avanti, anche laddove ci dovesse essere un attacco militare con droni, ne abbiamo già visto uno, ne abbiamo già visto un altro, adesso poi pare che questa fregata italiana, non so se è arrivata, se avete notizie, se è partita, quando arriverà, se sta scortando i compagni che stanno sotto Creta, che sono in direzione di Gaza. Volevamo capire, secondo voi, innanzitutto, se voi comunque continuerete ad andare avanti anche se dovessero attaccare la flottiglia. Due, cosa pensate di quello che sta dicendo il governo, che insomma da una parte sta cercando di fare una di mandare una fregata per fare la scorta, ma dall'altra parte vi accusa di essere gli irresponsabili di addirittura provocare delle guerre con Israele. Di questo vorrei sapere, insomma, da te cosa ne pensate, ma soprattutto la situazione, visto che voi siete in mare, secondo voi come si evolverà e quello che voi pensate accadrà, se riuscite a darmi una percezione, insomma. La Palestina è stata una scintilla che ci ha consentito a tutti quanti di uscire dall'inerzia, ma fondamentalmente dal senso di impotenza che in qualche modo ci aveva avvolto, ci aveva un po' subissato. La gente sta diventando, è un momento storico particolare, la gente sta diventando protagonista della propria vita, del proprio futuro. Questo ripudio generale a fronte invece di connivenza e collusione dei governi sta diventando, dalla scintilla appunto che è stata accesa dal genocidio in Palestina, sta diventando un incendio che sta dilagando e sta bruciando tutto. Noi su questa storia qua contiamo moltissimo, è quello che ci porta in avanti, ma non dimentichiamo. Certo, può sembrare un po' vergognoso il paragone, ma non dimentichiamo che lo stesso tipo di atteggiamento predatorio, la stessa arroganza, la stessa violenza viene esercitata un po' in tutti i posti. Per cui è molto importante quello che si sta facendo a partire da questo momento, ma è altrettanto importante quello che si costruisce e si fa nei propri territori, perché solo insieme che si può andare a costruire un mondo più giusto, un mondo dove il diritto prevalga sulla legge del più forte, sulla legge della giungla, eccetera, dove si ripristini un ordine internazionale, dove ci siano delle relazioni, ma fondamentalmente un mondo con una giustizia sociale. Questa cosa qui oggi sembra sparire dallo scenario, ma è a partire da queste grandi mobilitazioni che ci sono state e che ci stanno sostenendo e portando avanti, noi crediamo fortemente che la gente stia ridiventando protagonista delle proprie scelte e del proprio futuro, anche contro governi collusi e complici che invece marciano in una direzione ostinata e contraria. Grazie, vi salutiamo tutti quanti. Nando. Ciao da Francesca. Ciao da Fabio. Ciao. Ciao a tutti. Allora, innanzitutto pensiamo di partire in maniera cosciente e responsabile. Gli responsabili non siamo noi, ma gli responsabili sono altri. Ad esempio, Israele che bombarda e vessa un popolo e lo affama e lo sta sottoponendo ad un vero e proprio genocidio. Noi siamo invece responsabili nel senso che abbiamo scelto di procedere mossi appunto da uno spirito di solidarietà e anche di giustizia nei confronti di questo popolo, e lo facciamo in maniera del tutto responsabile, affrontando anche le varie variabili che ci si presentano davanti, una delle quali per esempio è il maltempo. Oggi noi vi stiamo parlando da un porto in cui abbiamo dovuto fermarci proprio perché le condizioni meteo non permettevano di proseguire in maniera serena è del tutto tranquilla con la navigazione. Ecco, l'altra cosa che possiamo aggiungere su questo è che la fregata non è una risposta, non dà sicurezza a noi, ma soprattutto non fa niente per fermare la guerra di Israele contro i Gazawi. È una cosa evidente questa qui. Noi andremo avanti, nonostante sappiamo che ci assumiamo dei rischi, fin quando non cambierà qualcosa da questo punto di vista, fin quando non si aprirà un corridoio umanitario, fin quando il nostro governo non diventerà meno complice di quello che sta facendo Israele. Quindi il nostro obiettivo deve essere necessariamente quello. Certo, se colpiranno la SUM di flottiglia, che è quella in prima linea in questo momento, noi spero di arrivare in tempo per sostenere i compagni e gli amici della SUM di flottiglia, perché crediamo che sia una cosa fondamentale. Ma sono anche fiducioso, perché sono convinto che quello che la flottiglia di terra sta facendo oggi in Italia, tutti quelli che stanno sostenendo questa iniziativa, renderanno possibile un'uscita politica, perché imporrà le grandi manifestazioni, gli scioperi, imporranno un cambio nel quadro politico generale, quindi ci permetteranno di aprire questa. Fate presto, così non ci bombardano mentre siamo in mare, solo questo voglio dire. L'ultima domanda che vi facciamo è: noi abbiamo scioperato, la CGIL addirittura è entrata in sciopero, ha fatto uno sciopero venerdì, è disposta a scioperare insieme all'USB e Cobas e a scendere in piazza appena la flottiglia verrà attaccata. Cosa ne pensate di questa mobilitazione che c'è stata? Avete ancora bisogno, credo, di mobilitazione? A livello di una prospettiva politica, come secondo voi si dovrebbe evolvere anche le nostre proteste per darci anche una mano? Che noi comunque siamo pronti in caso di attacco, in caso ci sia venga meno anche in certo senso la missione. Secondo voi dateci un supporto anche di proposte, visto quello che sta accadendo, e anche come dovremmo muoversi per chi come me comunque militando dei sindacati dentro i movimenti politici. E con questa domanda vi dico, insomma, noi vediamo tutta parleremo anche di voi, facciamo in bocca al lupo e che tutto possa svolgersi nel migliore modo possibile, che possiate rompere questo assedio. Vi saluto a tutti e veramente in bocca al lupo. In culo alla balena, in questo caso. A questa terza domanda rispondo io, sono Fabio Saccomani e sono il quarto membro dell'equipaggio. Dunque, quello che sta avvenendo a terra per noi è fondamentale ed è in realtà il centro della vicenda che sta accadendo. Cioè la notizia, ciò che sta realmente facendo la storia di questo periodo, non siamo noi nelle barche, non sono le barche in sé, le flotte che si stanno muovendo, ma è quello che attraverso questo movimento simbolico avviene a terra. Lunedì 22 c'è stato uno sciopero generale partecipato come non succedeva da molto tempo, e gruppi di persone, al di là tra l'altro delle appartenenze politiche, stanno bloccando porti, stazioni, autostrade, cioè gli snodi in cui il sistema, che è lo stesso sistema che poi perpetra il genocidio, è vulnerabile, dimostrando da un lato una grande consapevolezza storica e politica e dall'altro una capacità di riprendere in mano le redini del proprio tempo e della propria storia. Quindi assolutamente quello che avviene a terra è essenziale e deve essere sostenuto con ogni mezzo necessario. Secondo noi è fondamentale che le lotte convergano, cioè quella per il popolo palestinese è la lotta che trova una dimensione simbolica e, diciamo, centrale, perché il popolo palestinese è quello che sta subendo di più, ma sono i popoli della terra a subire la prepotenza di un sistema basato sulla legge del più forte e sulla sacrificabilità, come dice Nando, di popoli, territori e culture. Quindi dobbiamo assolutamente far convergere le lotte affinché si capisca che la lotta per la Palestina è una lotta per tutti noi, è la lotta per portare avanti una visione del mondo e dell'umanità, un'umanità che appunto non ritiene sacrificabili i bambini e non ritiene altrettanto sacrificabili il sistema sanitario del meridione, che il cui deterioramento comporta la morte di persone. Quindi ecco, speriamo che possano continuare le lotte, che questa manifestazione, questo sciopero del 22, il primo giorno d'autunno, segni un autunno estremamente caldo. Per Global Summit Flottiglia, c'è una voce che spezza il silenzio da tempo che va. Free Free Palestine arriva pronta dal fondo, sulle onde del mare, da ogni parte del mondo, con voglio di pace. Porta voce e supporto chi muore ogni giorno, fra piogge di piombo e le bombe su Gaza. Salveranno da terre, paesi lontani, sono più che le stelle sui cieli Gazawi. Ora unite le forme, le forze, la flotta si scontra col vento del mondo che tace. Ma è la flotta più grande che la storia conosca, luci mare nel buio, una galassia nascosta. E Israele una morsa, reso Gaza una gabbia, ad ogni bomba che importa sogna la nuova Nakba. E sono quante le stelle, tutte le navi dal mondo, a convergere in combo, ora per rompere il blocco, mentre l'alba su Gaza piange la sua città. Saranno quante le stelle, da ogni parte del mondo, a convergere in combo, ora col cuore a babordo, già Gaza e domani tutta l'umanità. E l'Occidente ora tace, perché complice attivo, chiama non divisivo tutto il suo servilismo. Dice guerra ai confini, ma non colonialismo. Dice lungo conflitto invece che genocidio. Chiede pace fra parti, ma non cambierà mai. Chiude gli occhi sui campi, stragi, spari, apartheid. L'Occidente negli highlights si pente ma mente, mentre prende le armi, piange sulle macerie. Ma una voce che rompe il silenzio, ora un nuovo sentiero. Viaggia forte, rincorre una rotta nel vento che fa. Free Free Palestine prova a far differenza, Gaza in tutta la striscia, perché l'indifferenza non sia più il paradigma. Viene da tutto il globo, dopo miglia su miglia, sostiene anche tu, Global Summit Flottilla. E sono quante le stelle, tutte le navi dal mondo, a convergere in combo, ora per rompere il blocco, mentre l'alba su Gaza piange la sua città. Saranno quante le stelle, ogni parte del mondo, a convergere in combo, ora col cuore a babordo, già Gaza e domani tutta l'umanità. Ma tutta la realtà sua è fatta, guarda e tace, la banalità del male di Allah, una moralità più umana salva in mano. Non c'è silenzio, silenzio, ogni silenzio è neutrale. Non tornerà mai l'ultima voce di Aman, che filmava la striscia devastata dai tank. Non risuonerà il rap nelle strofe di Swap, che cantava giustizia né Israele né Hamas. Ogni potente sta muto, loop di mille silenzi, che diremo in futuro a tutti i figli e i superstiti, che ora vaga nel fumo sotto i bombardamenti, ma che ora scappa nel buio in fuga dagli F-16. E sono quante le stelle, tutte le navi dal mondo, a convergere in combo, ora per rompere il blocco, mentre l'alba su Gaza piange la sua città. Saranno quante le stelle, ogni parte del mondo, a convergere in combo, ora col cuore a babordo, già Gaza e domani tutta l'umanità. Allora, avete sentito questo pezzo meraviglioso che sinceramente non conoscevo, ho scoperto questo pezzo, che sia uscito da pochi giorni, e allora, io credo che Fabio abbia centrato, non che gli altri non abbiano detto cose intelligenti, giuste e corrette, che condivido appieno tutte le cose che hanno detto, ma io ringrazio Fabio per le parole che ha usato, perché sono quelle che, insomma, io sto cercando di dire in fabbrica nelle assemblee che facciamo per convincere i lavoratori a scioperare per la Summit Flottiglia, per la guerra a Gaza, per creare dei corridoi umanitari, per cercare di fare questo embargo economico ad Israele, per, insomma, siamo stati, abbiamo scioperato venerdì, poi ne parleremo, una puntata degli scioperi di venerdì, abbiamo scioperato lunedì, in questo caso io ho scioperato anche, ho fatto sciopero dell'USB, ho portato i lavoratori con me, lo sanno tutti, a Bologna. Abbiamo creato un appello ormai da tanto tempo in cui chiedevamo lo sciopero generale e siamo stati da quelli che ci ha sempre creduto uno sciopero generale. Chi segue il Pane Rose sa che sono più di un anno che chiedo lo sciopero generale, che chiedo che i sindacati si mobilitano per Gaza, perché Gaza non è un problema solo di Gaza. C'è la guerra che c'è in Israele a Gaza, questa forma, non so nemmeno come definirla, no? Questo genocidio, ma questa forma autoritaria di imporre lo sterminio di un popolo, si ripercuote poi nella vita quotidiana di tutti quanti noi. Io penso che Fabio ha pienamente ragione. Si ripercuote anche sul fatto che poi si producono armi e non si tagliano i soldi per la sanità e poi muore la gente nel meridione, certo, ha ragione, ma non solo. Si tolgono i soldi per le scuole, i giovani italiani vanno all'estero, devono costretti a emigrare per le politiche di questo governo, questa forma autoritaria, questa situazione veramente di terza guerra mondiale, questa situazione in cui i governi sono al soldo del capitale e il loro compito è quello di valorizzare il capitalismo in tutti i modi, anche al costo di sterminare un popolo. Io penso che siano un esempio, veramente ci siamo anche noi, come nella prima canzone degli Assalti Frontali, non possono far finta che non ci sono, ed è importante certamente far capire a questo governo, ma a tutti i governi, che noi siamo capaci di ribellarci e di fermare questo sistema che porta alla morte, che porta alla guerra, che porta alla distruzione del mondo. Ecco. Viva la Sud Flottiglia, viva la Freedom Flottiglia, viva i compagni che sono a terra, che lottano, continueremo a lottare per loro, lo sciopero generale appena toccheranno i compagni, finalmente anche la CGIL si è decisa a collaborare con l'USB e i COBAS e anche gli altri, chiaramente con la CGIL, questo per noi è una grande soddisfazione perché sono anni che chiediamo l'unità di classe, che non è ancora perfetta, non c'è ancora come noi vorremmo, ma speriamo che presto arrivi per poter veramente cambiare il sistema e cambiare questo paese e tutto il mondo, magari.